la versione di Oscar Giannino. This is the end, beautiful friend. Buon pomeriggio, cari ascoltatori da Oscar Giannino, qua a Radio 24, questo giovedì 15 maggio, Sant'Isidoro. Auguri a chi è Isidoro. Quando qualcuno continua a dirmi o a ripetermi, ma sto di The Doors, quando è che lo levi? Ecco, scusate, io ho scritto 2 giorni fa un pezzo dicendo c'è troppo ottimismo sullo spread. Avete sentito, immagino, prima dell'inizio di questa trasmissione, gli aggiornamenti sullo spread che schizza di nuovo a 180, ma il problema è che abbiamo avuto stamattina il dato del primo trimestre 2014 sul PIL italiano e ha il segno meno 0,1% dopo il più 0,1% dell'ultimo trimestre del 2013, e lo dico con il tono basso, come ovvio. Oltretutto è un dato che si legge anche in un forte ulteriore rallentamento del resto dell'Europa, di una parte dell'Europa, perché la Francia sta a zero comunque in questo primo trimestre del 2014, l'Olanda perde addirittura l'1,4% del PIL, hanno naturalmente il segno meno ancora il Portogallo e la Grecia, la Spagna va benino che fa più 0,4%, la Germania meglio dell'attesa più 0,8%. Ma cosa voglio dire? Voglio dire che il contesto internazionale, con l'OCSE che ha ridimensionato la tesi di crescita per tutti, è comunque tale che dovrebbe indurre la politica a non intonare canti di ottimismo, a non dirvi che il peggio alle spalle, oramai basta credere e c'è il segno più. No, se non ci teniamo sulle maniche, se la politica non diminuisce la spesa, le tasse, non è così. E siccome per quest'anno da attenderci non c'è nient'altro fino alla legge di stabilità, tranne i 2 decreti, quello sugli 80 euro e quello sul lavoro che è stato approvato ieri, vuol dire che stiamo ancora nelle mani di quello che a giugno farà il signor Draghi. Ma per il resto non vi stupite di andamenti come quello di oggi, perché non è vero che siamo fuori ancora dal disastro, per niente. Vabbè, questa è la interpretazione del giorno, però non parliamo di questo oggi, oggi parliamo di Rai. Quindi chi volesse telefonare all'800 24 00 24, questo è l'argomento. Perché? Perché lo sapete, in uno di questi 2 decreti il governo ha stabilito che la Rai deve contribuire per 150 milioni quest'anno di ulteriori risparmi, gli ha indicato anche la strada, ma poi la Rai decida, lei ha detto al governo, se vendere o meno per esempio le torri di trasmissione di Rai Way. In più, in teoria, la Rai è chiamata come tutti quest'anno anche a una spending review del 2,5% di spese in meno, ma di fronte a questo c'è stata un'esplosione corale di protesta dei sindacati della Rai, in particolare l'Usigrai e dei giornalisti, ma anche tutti gli altri, dei manager della Rai, con mia sorpresa, anche con una certa sorpresa, anche il presidente della commissione di vigilanza parlamentare, che è dei 5 Stelle, che pure da anni criticano durissimamente la Rai, sono sempre stato d'accordo come la Rai in mano ai partiti, eppure ha detto no, il governo sbaglia, Renzi non deve credere che la Rai è sua e può imporgli in questa maniera i tagli. Io non capisco come e perché la Rai debba tirarsi fuori dalla cinghia che tutta l'Italia privata da anni stringe e che finalmente secondo me anche il settore pubblico deve iniziare a stringere. Naturalmente dietro c'è il mantra, la ripetizione degli argomenti di chi dice no, come, il servizio pubblico bisogna difenderlo, loro vogliono, lo sapete, l'aumento del canone, vogliono che il canone entri nella bottiglietta elettrica. Io francamente non la penso così, cioè io vorrei vivere in un mondo nel quale nel 2016, quando ci sarà il nuovo contratto di concessione, non lo diamo automaticamente alla RAI, ma lo diamo attraverso una libera gara sul mercato in cui tutti si possono candidare a gestire un servizio pubblico che però va ridefinito e molto ristretto, informazione, approfondimento, cultura, quello che volete, da offrire senza pubblicità, perché la pubblicità va ai canali commerciali, e che si possono secondo me candidare a gestire tutto in cambio dell'offerta di uno standard elevato di questo servizio pubblico, ma con una gara aperta a tutti. Ecco, io sognerei un mondo così, vorrei addirittura una proposta di legge popolare perché la concessione pubblica sia data in questo modo e finisca una volta per tutte l'idea che la RAI è intoccabile. Anche perché intoccabile, ma se andiamo a vedere tante cose, io non mi convincerò mai. Oggi per esempio la RAI, voi sapete che non rende pubblici gli elenchi delle retribuzioni nominative dei dirigenti e dei suoi consulenti esterni, e per privacy, dice che si sottrae all'obbligo di legge che vale per il resto della pubblica amministrazione, per privacy, ne abbiamo più volte parlato. Allora oggi è passata in consiglio di amministrazione una delibera per la quale si adeguerebbero, uso il condizionale, vi spiego perché tra un secondo, al limite dei 239 mila euro lordi che, come sapete, questo governo ha introdotto, quello del capo dello Stato. Però non si capisce bene a chi si applica, perché si capisce solo che si applicherà di sicuro al presidente, ad Anna Maria Tarantola, che oggi guadagna 366 mila euro e quindi ne perde 127 mila. Però pare, tutti i giornali, sto leggendo dal sito di Repubblica in questo momento, che non si applichi però per Gubitosi, che sta intorno ai 650.000 euro l'anno, e non si applica automaticamente agli altri dirigenti che sono sopra questa quota, di cui noi non sappiamo i nomi. Abbiamo saputo nelle audizioni parlamentari che sappiamo solo il numero, cioè c'erano tre dirigenti superiori ai 500.000 euro, uno tra i 4 e i 500.000, 4 tra i 300 e i 400.000, 34 tra i 200 e i 300.000. Come sappiamo anche che sul totale dei 1.700 giornalisti ce ne sono 322 giornalisti, uno guadagna più di 500.000 euro, questo si sa chi è, perché dovrebbe essere Minzolini, che nel frattempo è senatore, 3 tra i 4 e i 500.000, 3 tra i 300.000 e 400.000, 24 tra i 200 e i 300.000. Però pare che a questi dirigenti la delibera di oggi non si applica, perché, come si legge sul sito di Repubblica, non si applica, ma i dirigenti spontaneamente rientrerebbero, cioè si autoridurrebbero. Allora, questa è la chiarezza della società che protesta contro i 150.000 euro di risparmi quest'anno. Questa è la chiarezza che ci viene data. Qualche altra cifra, poi lascio la parola all'ospite di oggi, che è un collega che però ha scritto di questo tema, cifre alla mano. Io vi ricordo che la RAI, con i suoi 13.000 dipendenti, ha più dipendenti di Mediaset, Sky e La 7 sommati. E ci sono poi altri 30.000 collaboratori, ma per carità, è che il costo medio di un dipendente RAI è di 89.000 euro, quello Sky è di 30.000 euro in meno. Voi direte Sky taglia troppo, però questi sono i numeri complessivamente, cioè in RAI il costo del lavoro incide per circa il 36-37%, in Mediaset il 13,4%, il 7,3% in Sky. Questo vorrà dire qualcosa in termini di efficienza comparata, che i giornalisti, i colleghi giornalisti, che io non critico per carità, sono 1.700, cioè BBC News, che è il più grande network mondiale di informazione, ne ha poco meno di 2.000, e non lo so se la RAI può essere veramente paragonata a BBC News, è ovvio che no. Quindi da questo punto di vista, secondo me, e ho concluso, io ricordo solo che invece di insorgere, il presidente del Consiglio attuale, Matteo Renzi, quando organizzava la Leopolda, ecco, nella Leopolda 2011 c'era uno degli impegni precisi che aveva assunto nel 2011, era il 16° dei 100 punti programmatici lanciati alla Leopolda di quell'anno, diceva testualmente, lo leggo per ricordare quello che Renzi diceva come uomo politico, non premier, lo leggo: oggi la RAI ha 15 canali, dei quali solo 8 hanno una valenza pubblica, questi vanno finanziati esclusivamente attraverso il canone, punti di Renzi. Gli altri, inclusi RAI 1 e RAI 2, sottolineo, inclusi RAI 1 e RAI 2, diceva allora Renzi, devono essere da subito finanziati esclusivamente con la pubblicità, con affollamenti pari a quelli delle reti private e successivamente privatizzati. Impegno di Renzi votato alla Leopolda 2011, ecco, per ricordare a tutti il passato. Ne parliamo però e sentiamo la sua opinione con un collega italiano che però lavora a Debtwire, lavora a Londra, fortunato lui, in un'agenzia stampa del gruppo Financial Times, che si chiama Antonio Vanuzzo. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Antonio. Buon pomeriggio Oscar, buon pomeriggio ai radioascoltatori e grazie per l'invito. Allora, tu hai scritto, mi pare che fosse gennaio, insomma qualche mese fa, un articolo che mi ero preso da parte sull'Inchiesta, che è una testata italiana con cui collabori spessissimo, secondo me scrivi molto bene su argomenti economici, e il titolo, che ti ricordo ma te lo ricorderai tu, è Il vero servizio pubblico, diceva il titolo del tuo articolo, privatizzare la RAI. Per non sembrare ideologici, perché la pensi così? E innanzitutto però cominciamo dalla polemica del giorno. Come la vedi da Londra, la risposta dell'azienda e del sindacato? Ma Diciamo che non mi aspettavo nulla di diverso, nel senso che ovviamente quando si va dopo a toccare posti di lavoro e magari anche qualche diritto acquisito, è assolutamente normale che ci sia la sollevazione popolare. Però io volevo partire da un ragionamento, e cioè il ragionamento, diciamo, che ha scatenato un po' tutto l'ambaradan, e cioè le parole di Floris a Ballarò. Cioè, Floris secondo me parte da un assunto che sostanzialmente è sbagliato, perché dice ma non è che con il monopolio, chiedere sacrifici, cioè con il duopolio tra Rai e Mediaset, che è assodato, che è ventennale, chiedere sacrifici soltanto alla Rai, quindi questi 150 milioni di spending review alla Rai, favorirebbe il rivale, cioè Mediaset, parte dall'assunto che più si spende e più diciamo così si guadagna in termini di canone, che è una gamba dei ricavi della Rai, e in termini di ricavi pubblicitari. Allora, io, giusto per fare un paragone, siccome appunto sono a Londra, mi sono preso l'ultimo bilancio della BBC. L'ultimo bilancio della BBC è molto interessante. La BBC, ricordiamo, non si finanzia con la pubblicità. Volevo solo dare questo dato rispetto alla RAI. Allora, la RAI ha approvato di recente il bilancio 2013, che vede 5 milioni di utile, però non ci sono ancora, diciamo così, i conti nel dettaglio. Quindi io mi sono preso, appunto, nell'articolo che citavi, il bilancio 2012, che dice ricavi complessivi sono 2,6 miliardi, dal canone arrivano 1,7 miliardi. Mentre circa 700 milioni dalla pubblicità, il tutto con un miliardo circa per pagare tutti i dipendenti della RAI, come dicevi anche tu prima. Allora, la BBC nell'anno fiscale 2012-2013, che va da marzo a marzo, ha generato 3,6 miliardi di sterline di ricavi, di cui 1,4, cioè un miliardo e mezzo sostanzialmente, da vendita di prodotti a marchio BBC, tramite il servizio BBC Worldwide. Ora, qua bisogna intendersi, a mio avviso, nel senso che uno dei prodotti di punta di BBC Worldwide è stato Ballando sotto le stelle, che è stato acquistato da Rai 1 ed è stato trasmesso, dice il sito internet di BBC Worldwide, in 42 paesi. Allora, qui secondo me bisogna capire che cosa si intende per servizio pubblico. Questo è un servizio pubblico o non è servizio pubblico? Ognuno può avere la sua opinione, però sta di fatto che, diciamo così, la divisione commerciale dei prodotti a marchio BBC genera un terzo dei ricavi della BBC. Cioè, non è la pubblicità, certo. È semplicemente che un tema, secondo me, di accountability, cioè i documentari, i notiziari, anche i prodotti, diciamo così, di intrattenimento riescono ad essere venduti in tutto il mondo. Appunto, ripeto, Ballando sotto le stelle è stato venduto in 42 paesi. Ora, io credo che uno dei modelli più interessanti per la RAI potrebbe essere proprio questo. Mi viene un esempio così, pur parlé ovviamente, però il caso di Fiction, prodotte internamente dalla RAI, non so quante e quali di queste vengono vendute, diciamo, negli altri paesi, però sappiamo bene che, ad esempio, in Sud America c'è un bacino d'utenza molto, molto interessante per i prodotti in lingua italiana. Allora, perché non provare a spingere su questa leva commerciale piuttosto che avere la doppia gamba, abbonamenti, quindi canone RAI e pubblicità? Ok, quindi separazione, anch'io sono perché il servizio pubblico non debba avere la gamba commerciale, e come si vede con la BBC ed è tutto possibile, vista la elevatissima qualità che poi esprime quel margine prodotto con la vendita dei propri prodotti. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta a parlare di Rai, la protesta dei manager, dei sindacati per quello che il governo chiede di risparmiare alla Rai, indicandogli anche la strada ci dette le torri. Abbiamo visto un po' di numeri comparati, abbiamo visto come la BBC faccia molto meglio, ma naturalmente senza avere il pilastro commerciale. C'è una concessione che scade tra 2 anni. La mia idea è che bisogna fare una gara aperta a tutti. Comunque, alcuni sms che sono arrivati: Ballando con le stelle e il Rai, però qui è stato appaltato alla Rai Ballandi Production di area DC, ci dice un nostro ascoltatore, fa bene dire lo studio, vi assicuro che è vero quest'ultima cosa, non lo so, magari sono molto credenti, cosa vuoi che ti dica. La sera della diretta Rai della finale di Coppa Italia, Genia Carogna, Deus Ex Machina, c'erano più giornalisti sportivi Rai in campo, tutti rigorosamente in grisaglia, sembravano senatori della Repubblica che calciatori, e vabbè, questo però... Comunque, di solo canone Rai negli ultimi 3 anni la Rai ha preso quasi 5 miliardi di euro. Appunto, sì, abbiamo visto che questi sono i proventi. Però, naturalmente, loro dicono che non bastano, che bisogna aumentarli. Sentiamo Pino da Torino, come la pensa? Prego, Pino. Buonasera, Oscar, è un piacere risentirla. Sì. Senta, io volevo solo dire questo. Io sono uno sportivo, mi piace lo sport. E su questo vedo che la Rai comincia a perdere parecchi colpi. Ad esempio, Formula 1... Non riusciamo più a vedere un Gran Premio in diretta. Automondiale, vabbè, non l'ha mai fatto, ma comunque penso lì ci sia un bacino di utenza, di gente che... non si so i soldi che prende dal canone, cosa vengono spesi. In Sanremo, che ormai non fa più numeri e non interessa quasi più a nessuno, perché si continuano a spendere soldi lì. Poi, come diceva lei, questi... dirigenti che prendono cifre astronomiche per far che cosa rispetto alla concorrenza. E quindi in buona sostanza tu non ti stupisci che il governo intervenga. Sentiamo Pasquale da Como, prego Pasquale. Sì, buonasera Oscar, io sono molto arrabbiato per il fatto che pagando il canone, soprattutto riguardo all'informazione, sì. Mi dà molto fastidio che i partiti si spartiscono l'informazione, diciamo, pubblica. A me il fatto che il governo sia editore dell'informazione manipolata verso i cittadini, questa è una cosa che dà molto fastidio. C'è sempre un'informazione di parte e a me pagare il canone per questo tipo di informazione dà molto fastidio. Poi non capisco i sindacati, perché c'è sempre da difendere i posti di lavoro e non si schierano per quanto riguarda la gente Lazzarone, che non fa niente dalla mattina alla sera. Tutto qui, grazie Oscar e buonasera. Grazie Pasquale. Ancora Pierpaolo da Firenze, prego Pierpaolo. Buon pomeriggio Oscar, piacere di conoscerti. Buon pomeriggio. Sono un collega, tra le altre cose, perché ho una piccola emittente radiofonica che va via web, quindi noi con praticamente zero soldi facciamo la radio, perché non ci costa veramente nulla, a parte un po' di corrente e un po' di connessione, però facciamo la radio. Un esempio, siete voi Radio 24, non siete una radio di Stato, però fate della buona informazione e dell'ottima qualità, e non costate certo quanto può costare questo Rai. Ma è sicuro. Quindi non c'è nemmeno, cioè, non, di cosa parliamo, no? Ci sono delle radio che con meno soldi fanno un buon prodotto. Quindi Floris, scusatemi, l'ha fatta un po' fuori dal vaso. Va bene. Però Pierpaolo, e giro la domanda al nostro Antonio Manuzzo, io credo che invece la risposta di Floris a una certa parte del pubblico, ma anche degli elettori, che sempre una certa parte politica che hanno sempre difeso la RAI, sempre e comunque, perché noi viviamo da questi 20 anni in cui la RAI è l'espressione poi del duopolio di questo bipolarismo scazzonte, zoppo, politico, Berlusconi sì, Berlusconi no. Piaccia in definitiva, poi alla fine è come un po' la scuola pubblica e la scuola privata. Tu che impressione hai, stando un po' fuori dalla realtà italiana, Antonio? C'è anche a chi piace invece la posizione di Floris? Sì, penso proprio di sì, ma per una ragione molto semplice, che però riguarda non tanto la RAI quanto la commissione di vigilanza della RAI. Perché il punto vero è che la commissione di vigilanza della RAI nasce sostanzialmente per garantire la par condicio. Quindi per garantire che tutti i partiti, esatto, diciamo, o meglio nella versione italiana. Ohimè, ci sfumano. Grazie Antonio, continuate con Radio 24.